questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube. Ciao Marta, bentornata. Speciale questo. Molto speciale, molto speciale. Il sottotitolo potrebbe essere Tanto tuonò che piove. Cioè, perché spiegami? Tanto ne abbiamo parlato a spizzichi, certo, e bocconi, vero, questa volta vero. Mettiamo tutto assieme. Allora, et Marta Cagnola, sì. Et di Bellasio, hashtag RadioTube, hashtag ISDV. Ma il adesso però spieghiamo un po' meglio. Allora, spieghiamo bene. Uno dei fil rouge di questi due anni e mezzo, tre anni di RadioTube è stato il talk show, perché inevitabilmente quando parliamo di realtà veicolata dalla rete e televisione che raccontano la realtà, i talk show... realtà che si mischiano tra di loro, perché ormai devi twittare mentre guardi, a volte fingi di aver visto e ti basi solo su quello che hai letto, ma quello che hai letto molto spesso non è veritiero davvero della trasmissione. Allora, complice un ospite che poi avremo... che sì. Io gli ho rubato proprio l'idea parlando, abbiamo pensato che ladro. Però l'abbiamo invitato, dai, sì, poi stiamo denunciando il copyright, certo, sì. Allora, complice questo consiglio di un amico e collega, abbiamo detto facciamo una bella storia del talk show, tra l'altro anche per mettere i tuoi nervi, visto che siamo sotto par condicio, un po' alla prova. Io parlerei solo di talk show del 1954, allora, del primo anno della TV italiana, no, poi ho paura per la par condicio. E questo potremmo invece parlarne con il primo ospite. Il talk show nasce come politico o lo diventa? Lo chiamiamo subito in causa. Vai. Allora, docente di storia della televisione alla Cattolica di Milano, nonché, lo diciamo subito, il mio relatore di tesi di laurea, così l'abbiamo. La mia tesi di laurea è sempre un tormentone. Mi sono laureata quasi 20 anni fa, niente. Tutte le puntate di RadioTube viene fuori la tesi laurea. Se tu la tiri fuori, che ci posso fare? Adesso l'hai detto tu, professor Giorgio Simonelli. Buonasera, professore. Buonasera a tutti, Sono laureata con una tesi sul talk show, cosa devo fare? Vabbè, andiamo oltre la tua laurea. Almeno fai un master, così parliamo di un'altra cosa. Magari l'hai anche fatto, non sappiamo. Vabbè, la domanda è... L'hai fatta tu, il talk show. È nato con la politica oppure no? Anzi, facciamo così. È nato con questa cosa qua che adesso Valeria ci manda in onda o no? Con la trasmissione di questa sera comincia una nuova rubrica di cui avete visto e udito il titolo, Tribuna Elettorale. È una rubrica dedicata alle elezioni che avranno luogo in tutta Italia il 6 novembre è dedicata soprattutto ai protagonisti di queste elezioni, vale a dire a voi cittadini italiani, specificatamente a ciascuno di voi che il 6 novembre eserciterà il proprio diritto di voto. Non stiamo violando la par condicio, perché siamo nel 1960. Io mi sono quasi addormentato, così si capisce che già la professor Simonelli, tribuna elettorale avvincentissima, e partiamo bene proprio col botto, eh? Allora, la domanda qual era? Se è qui che nasce il talk show italiano, italiano. Assolutamente no. Oh. Assolutamente no. Il talk show non ha nessuna origine politica, nel senso che esiste il dibattito politico che è tribuna elettorale. Tra l'altro, sapete sicuramente, è uscito recentissimamente un libro molto bello sulla storia della tribuna politica e del talk show, che è un libro di Edoardo Novelli pubblicato da Carocci, che ripercorre proprio questa storia, diciamo, del dibattito politico. E l'idea nasce proprio da lì, del collega che abbiamo dopo. Ma il talk show nasce da tutt'altra parte. Il talk show italiano ha tre padri che sono fuori dalla politica. Uno si chiama Sergio Zavoli e è l'inventore del processo alla tappa. Un altro si chiama Maurizio Costanzo ed è l'inventore di Bontaloro. Il terzo si chiama Biscardi ed è l'inventore del processo del lunedì. A mio parere la nascita del talk show italiano è legata a questi tre programmi. Quindi viene prima lo sport. Il primo vero talk show è il processo alla tappa, nel senso che erano esistiti dei modelli di talk show, di dibattito, se vogliamo, insomma, c'era il famoso convegno dei cinque già in radio, e poi ci sono stati i vivere insieme, insomma, degli esperimenti di mettere intorno a un tavolo, intorno a uno studio, delle persone dandogli un tema, anche un tema importante, e raccogliere delle opinioni. Ma il talk come lo intendiamo noi, cioè la conversazione, la nobile arte della conversazione, mettendo persone che non sono affini come immagine e neanche come appartenenza, come professione, nasce proprio nel Giro d'Italia, quando Zavoli raccoglie sul palco del Giro d'Italia alla fine di ogni tappa giornalisti, atleti, direttori sportivi e anche qualche scrittore, cioè persone fondamentalmente diverse che devono discutere di cosa è avvenuto quel giorno e delle tattiche che si metteranno in campo il giorno successivo. Ma da lì nasce una commedia umana, una vera commedia, che è quello che nasce quando si trovano delle persone che hanno esperienze, formazioni, caratteristiche molto diverse e parlano un po' ovviamente di quello che fanno, ma soprattutto viene fuori quello che sono. Zavoli in questo fu un maestro, e la stessa cosa accadde nella Bontà loro di Maurizio Costanzo. Allora, professore, processo alla tappa, siamo 62-70 e poi vabbè, sì, con un 1998 per uno spin-off più recente. Sì, sì. Sì. Ma allora entriamo invece in atmosfera Costanzo con questo Bontà loro. Buonasera e bentrovati tutti. Gli ospiti questa sera di Bontalloro, della ripresa di Bontalloro, sono la signora Giovanna Mizzoni, che è una ex balia, come si dice, balia asciutta, il presidente del consiglio onorevole Giulio Andreotti e il press agent Enrico Lucherini. Dunque, noi ricominciamo dopo la... Vabbè, fantastico, Enrico Lucherini, ma... Scusa, ma tanto carino. Era in vinile? Vabbè, sembra un disco in vinile. Le cose d'epoca. Comunque non violiamo d'epoca. La par condicio neanche con perché Andreotti. Perché non è più... Basta che non diciamo niente. Ma anche forse il partito, se vuoi, perché non viola più la... No, è anche quello. Anche se non si sa, ci sarà, non ci sarà. Andiamo non violiamo oltre. La par condicio. Tanto non nasce con la politica. Professor Simonelli, tra l'altro va bene, nei giorni in cui ritorna Maurizio Costanzo, eterno. Beh, Maurizio Costanzo, sì. Cioè talk show alla fine non si libererà mai del fantasma di Costanzo. Giustamente, perché lui è il vero creatore di del moderno real talk show. Perché voi sapete come nasce Bontalloro? Ditemi se vi annoio con questa storia. Ma sai che io, per me la favola della buonanotte è la storia della televisione italiana, ma altro che... Siamo alla metà degli anni 70. E allora è appena finita la famosa crisi petrolifera che ha generato l'austerity. L'austerity ha significato il 74 e il 75 le domeniche a piedi e anche l'anticipo di un'ora della fine dei programmi, cioè si va a dormire presto per consumare meno energia elettrica. Finita l'austerity, la RAI pensa che si possa fare un dopo film del lunedì, cioè si può mandare gli italiani a dormire un po' più tardi. Si pensa a un programmino di poco impegno, di poco investimento, no? E lì nasce quest'idea di richiudere in una stanzino, no? Pochissimo spazio, chiudendo la finestra, tre persone, come abbiamo sentito, di origine, di natura molto diversa, a fare due chiacchiere. Un programma che doveva costare poco, rendere poco e non lasciare neanche il segno. E lì invece viene fuori un fenomeno straordinario, perché gli italiani vedono il film per aspettare Bontalloro. Bontalloro diventa il piatto più succoso del lunedì sera degli italiani e diventa un fenomeno di costume. Nascono delle dinamiche, nasce, come si dice oggi, un format che poi si applica a mille altri aspetti, ma è il vero talk show, cioè il fatto che Andreotti e due persone che con lui non c'entrano nulla, e un Andreotti che non è il politico, è l'Andreotti che deve parlare di altre cose che certo non siano la politica. Certo. Questo. Professore, ti chiediamo solo un attimo di pazienza perché abbiamo l'aggiornamento del traffico e ci risentiamo tra qualche istante ancora con Radio Tube. Radio Tube. E rieccoci insieme con questa puntata speciale di RadioTube, nella quale stiamo un po' parlando della storia del talk show, anche perché così andiamo a capire un po' il genere del quale stiamo parlando ormai da, sì, da tre mesi, stagioni se vivo, se di RadioTube. Quindi abbiamo imparato già una cosa, che appunto il talk show italiano non nasce con la politica, e anche sentendo gli audio, quelli in vinile oppure no, sembra di capire che nasce molto placido questo talk show. Però poi a un certo punto il ritmo arriverà. Professor Simonelli, all'epoca la TV era così? Placido, poi con qualche scatto, qualche polemica, qualche torta in faccia famosa. La placidità è la regola, ecco, la tranquillità, l'educazione, poi c'è ogni tanto qualche scarto. Ecco, però il ritmo può anche non essere lo scontro di per sé, infatti a un certo punto arriva... Possiamo già sentirla la sigla? Lo possiamo sentire, dai. Tanto sentiamo questa credo sigla. Credo che i radioascoltatori di Radio 24 dovrebbero intuire di chi andiamo a parlare. Vabbè, sentiamo intanto sentiamo la sigla che ci riporta in atmosfera. Beh, un'altra tappa fondamentale della storia della televisione italiana. Tra l'altro il professor Simonelli ogni tanto si affaccia anche dal nostro Giovanni Minoli. Mixer è stata... Sì. Soprattutto Rai 2, perché se uno pensa a Mixer, pensa a Rai 2. Sì. Ecco, attenzione, Mixer però non è un luogo di talk, è un luogo di faccia a faccia, che è un'altra cosa. Perché il talk prevede appunto persone che sono alla pari, guidate da una persona che fa da padrone di casa. Il faccia a faccia invece è uno scontro, è un luogo in cui uno che fa un mestiere, quello del indagatore, no? Del giornalista indagatore, mette alle strette, guardandolo in faccia, un personaggio pubblico che è lì in quanto personaggio pubblico. Abbiamo un piccolissimo assaggio appunto di un faccia a faccia che è passato alla storia. Benedetto Craxi, detto Bettino, milanese, 55 anni, sposato con due figli. Da quasi 13 anni è segretario del PSI, per 4 anni è stato il presidente del Consiglio, un record storico nell'Italia del dopoguerra. Deputato dal 68, nel 76 eletto segretario. Dicono che è di transizione, ma si sbagliano. Di carattere non è semplice, duro fino all'estremo, ma anche timido, spontaneo e chiuso, aggressivo e ingenuo. Brusco e cordiale, lui si definisce... Beh, devo dire che a me piace sentire nelle immagini d'epoca, nei video d'epoca, le voci più giovani. Sì, perché vero, noi non ci rendiamo conto della differenza, però insomma qualche annetto è passato e anche per il nostro transitorio ti ha fatto ridere. Di transizione, ma non è... Ci aveva intuito... Comunque noi sempre per non violare la par condicio... Non diciamo di che partito, è un personaggio storico, esatto, peraltro anche lui non si dice non più in vita. Quindi, professore... Il faccia a faccia. Sai qual è il mio primo ricordo di talk? Ce ne sono due di miei ricordi di talk e poi tu mi dici. TG Luna, del quale io ero pazza, non si ricorda di TG Quei Luna? Quei sei mesi che hai in più di me? TG Luna, bellissimo, all'ora di pranzo della domenica di Rai 1 e Blitz di Gianni Minà. Blitz sì. Intanto TG Luna vuol dire insomma le edizioni meridiane del TG, che sono un luogo anche di sperimentazione, di cambiamento del TG, luoghi dove appunto si sperimentano delle formule nuove come quella appunto della conversazione. E Minà ovviamente è la riforma della RAI, insomma è l'epoca della riforma della RAI. È quest'epoca di grande, come dire, di grande invenzione di formati della televisione. Professore, siccome so che ti dobbiamo lasciare a brevissimo perché hai un impegno impellente, posso cominciare a anticiparti a litigare, la domanda? No. No, perché il prossimo spezzone è una lite, quindi pensavo... Sì, perché tra poco sentiremo l'irruzione anche l'irruzione delle liti in TV. No, volevo sapere se, visto che ce lo chiederemo, se il talk è vivo o morto. Prima di lasciarti, voglio sapere se secondo te è vivo o morto, o X, come cantava. Il talk è... per me è una domanda imbarazzante, dato che io partecipo a un talk. Se dovessi pensare che è morto, sarei un po' preoccupato. Sicuramente il talk politico... se non è morto, è tenuto in vita con un accanimento terapeutico, come si dice, insomma, davvero che forse potrebbe anche essere abbandonato. Poi però io credo che il talk, la vitalità e la brillantezza, insomma, adesso per uscire di metafora, da un talk, dipende da alcune cose. Sicuramente dalla capacità del conduttore, dal ricordarsi che, dal non avere ambizioni eccessive. Ma io credo che il talk sia ammalato per un eccesso di ambizione. Nel momento in cui ha pensato di essere veramente la terza o quarta o quinta camera, lì è cominciato a non funzionare più. Invece io credo che continui a funzionare il talk se il conduttore sa fare il suo mestiere e se sa mettere a tema il tema, cioè se impedisce ai suoi convenuti di andare fuori tema, di fare ognuno quello che vuole, di recitare ognuno la propria parte. Io dico sempre che anche nel talk politico, anche in questo momento di talk politico, c'è un talk che funziona, che è 8:30 di Lilli Gruber, e funziona perché ci sono pochi ospiti, perché nessuno va fuori tema, perché se uno va fuori tema prende una bacchettata dalla maestra, che è molto severa ed è molto attenta, e quindi se è ben governato il talk. Se invece si pensa in grande che si possa in una serata, si possa far durare 3 ore una serata in cui ci sono 14 ospiti e si trattano i destini del mondo, allora lì alla fine non si porta a casa niente. Il professor Simonelli ha sempre ragione, grazie professore per essere stato con noi. Continui a essere grazie. Generoso nei voti, come con Marta. Arrivederci. Sì, con me. No, Marta ha avuto meno di quanto meritava. No, non è vero, grazie professore. Grazie alla prossima, grazie. Ti aspettiamo in studio la prossima volta. Bene, vienici a trovare. Sì, sai invece qual è il mio primo ricordo dei talk show in televisione? Eccolo. Ma lui ha la giusta di del capo dello Stato, poveraccio. Comico, diamo è veramente poveraccio, sei tu. Un capo dello sei Stato tu che non hai una lira, devi venire qua culturale. A posto per dare un cachet. Credo Basta. Culturale è un personaggio che, professore di che non si sa ancora bene, è un cronista, ma nemmeno uno storico questo dell'arte. Però è deliberata la professore, certamente tu non sai, informati di cosa lo come sia. Da tutto il mondo accademico non credo che abbia una grande ma cosa c'entra il mondo accademico? Ma pensa a te stesso, ma pensa a te stesso, come si fa a dare credito a un personaggio? Ma insomma spegniti un po'. No, non si deve trascendere, cioè, no, basta. Ti spegni tu. No, buoni. No, la smetti tu. Hai smettiamo una volta per tutte. No, per cortesia, hai rotto, ma soprattutto gli dà uno schiaffo. No, allora, uno schiaffo. Giuliano Ferrara. Va avanti tantissimo questa. Le voci anche qui. Le proprio. Voci, ma forse adesso le avrebbero tagliate un po' perché era comunque un po' lunga. No, beh, però per se, allora. No, ma loro stessi se le sarebbero date prima per, sì, per velocizzare. Perché adesso si sa che si può quasi. Anche qui delle belle voci giovani. Sì, c'era Giulianino. Giulianino piccolo. Non era tanto piccolo anche allora, Giuliano Ferrara. Sì. Roberto D'Agostino e Vittorio Sgarbino. Sgarbi, che era già uno Sgarbi, comunque. Sì, era ancora uno Sgarbi abbastanza ignoto, infatti era sì, lei sì. professore, chi è lei? D'Agostino in confronto era famosissimo allora. Ma D'Agostino aveva già fatto cose abbastanza apasse. L'irruzione della lite e anche un po' di quella che lo stesso Giuliano Ferrara a un certo punto ha detto il trash talk, cioè c'era un elemento di, come diceva prima il professor Simonelli, non bisogna pretendere troppo dal talk e ogni tanto si scade in quella cosa lì che troppo nel senso del botte. Ma allora cominciamo a salutare il nostro ospite. Ce l'abbiamo già. La persona a cui ho rubato l'idea. Ecco, perché l'ha detto subito Daniele Bellasio che questa idea di dedicare una puntata al talk è rubata. Sì. Però dice: vabbè, l'ho rubata, però l'abbiamo invitato. La persona a cui l'ho rubata. Esatto. Ecco, abbi il coraggio di salutarlo e di introdurlo. Abbiamo tu. Al telefono Francesco Caldarola, che proprio di lavoro fa l'autore. Quindi dà le idee. Non è nostro, quindi in questo caso è un furto. Ma di Ballarò. Però c'è, Francesco. Allora, intanto vi ringrazio subito che mi mettete in onda dopo che il professor Simonelli ha fatto tipo il funerale dei talk show, quindi sono già in ginocchio io, hai capito che no, Simonelli però è la massima autorità. Lui stesso ha detto non sono morti perché altrimenti anch'io sono in un talk show, ecco. Scherza, ovviamente. Ciao a tutti e ciao a chi ci ascolta, ovviamente. Possiamo dirlo che tu conosci bene Radio 24, che insomma hai dato le tue idee, sono state... Diciamo a grande voce con grande orgoglio, questo è sicuramente. Soprattutto le colleghe lo dicono, secondo me, a grande voce. Perché è un gran bel ragazzo, vabbè, diciamolo alla radio. E quando lo dici tu, quindi lo sì, posso dire anch'io. Sì, perché io, sì, proprio un bel ragazzo. Un gran bagai. Ho imparato... Vi odio. Non è grave. Vabbè, manda la pubblicità prima che trascendiamo. Ci ritroviamo tra un pochino perché ne abbiamo da chiedere anche magari di qualche dietro le quinte. Una mezz'oretta di dietro le quinte. Dietro le quinte. A tra poco ancora con Radio Tube. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta... RadioTube. Ecco, a proposito di fantasmi, è arrivato il fantasma nostro, il fantasma dell'opera, visto maestro? Lei è rimasto incantato a vedere questo servizio dei fantasmi, dico è arrivato anche il nostro fantasma. È l'attrice Lilli Carati, completamente fuori dal mondo, infatti il suo orologio era indietro di un'ora, quindi è arrivata in ritardo. Non era solo l'orologio, è del fantasma, per cui chiaramente molto molto indietro. Sono gli extraterrestri, maestro. E questo era TG Luna, Romano Battaglia. Ma Romano Daniele Battaglia. Bellasio non si ricordava, no, di questo Romano TG Battaglia, Luna sì, no, no, adesso che era hai detto bellissimo, Romano andava Battaglia in onda allora dal 76 al 93, quindi tanti anni. All'ora di pranzo il programma durava 50 minuti e comprendeva una breve edizione del TG1 delle ore 13.30 di soli 10 minuti. Ah, sì, e sì, quindi no, quando mi ricordo da Romano piccolina Battaglia, il primo talk show in questa puntata che stiamo dedicando un po' alla storia, tanto, alla sì, geografia. Beh, un po' tanto, ma uno speciale ogni tanto, sì, ci vuole. Scherzando, dai, sto dai, scherzando. Dai, dai. E abbiamo anche un ospite. Allora, raccontiamo un po' che cosa fa e chi è il nostro ospite per chi si fosse collegato solo ora con il nostro RadioTube. Devo io? Dai, no, allora, vai, io ho incontrato dai. Francesco Caldarola, che è al telefono a Roma. Sì. E parlando il più del meno di una cosa che organizzo a settembre, a Spotorno, di un premio di giornalismo, lui mi ha detto, no, però qua, siccome tutti parlano della fine del talk show, e lui giustamente, essendo autore di un talk show televisivo sulla politica come Ballarò, detto magari io anche un po' faccio gli scongiuri che sia del tutto defunto, però si potrebbe fare una bella storia con gli spezzoni. E io zitto zitto ho detto bella idea, te l'ho proposta, l'abbiamo fatta e siamo qua. E così però, l'hai subito rubata, l'ho Francesco subito rubata, che abbiamo perché ancora in collegamento. Ciao Francesco. E adesso ci possiamo far raccontare, vai Marta. Francesco, noi abbiamo parlato con il professor Simonelli, che tu stessi hai detto un'autorità in materia, perché lui è proprio stato uno dei primi in Italia davvero a studiare accademicamente il talk show. Siamo partiti un po' dagli inizi sportivi, non tanto politici, perché come ci ricordava il professor Simonelli, Zavoli, il processo alla tappa, il processo del lunedì di Biscardi e poi tanti tanti talk politici. Tu lavori appunto a Ballarò, che è uno dei talk peraltro più storici tra quelli che vanno in onda, e prima di accoglierti ci siamo ripassati una bella lite che era stata quella di Sgarbi, D'Agostino e Giuliano Ferrara. Certo. Un autore in quel momento lì cosa proverebbe? Gode. Di la verità. La verità è, dipende di che talk sei autore. Cioè, il confine tra la share che sale, perché c'è un dibattito animato, e il trash, quel confine è molto labile, no? Se stai oltre, cioè se stai prima di quel confine, è chiaro che immagini che quella cosa lì possa, come si dice in gergo, funzionare. Se invece poi si trascende, è un boomerang. È molto delicato, è molto delicata. Questa di Sgarbi e D'Agostino fu una delle prime, quindi è quasi studiata. Infatti, giustamente voi la fate vedere. Ben oltre, poi il limite si è ben passato, no? Dopo, rispetto a queste due, a due che comunque ci vanno ancora nei talk show, quindi evidentemente sono ritenuti in grado di poter dire ancora. Addirittura Vittorio Sgarbi ha una rubrica fissa, il virus di Nicola Porro, quindi insomma sono due personaggi che hanno segnato la televisione, il costume di questi anni. Mentre Ferrara, forse anche perché un po' l'ha creata, i talk show li frequenta meno. Molto, molto meno. C'era un altro però grande maestro del, quello che diceva prima il professor Simonelli, dell'abbassamento voluto della discussione, del dibattito. Forse per non il primo maestro di questa cosa. Sì, che tra l'altro non si vergognava di questo aspetto popolare e un po' popolano. Stiamo allora parlando, mostriamolo alla radio e vediamo se ve lo ricordate o lo riconoscete subito. Dovete vedere noi, perché la televisione non vi fa far crescere quando fa le sue trasmissioni, ve vo tene buoni. Questa trasmissione discute e vi fa discutere dei vostri problemi, perché vedete, guardate che bell'abito che ho, io ho una casa al mare, o mi guardate o io me ne vado. Ma mi dovete guardare in tanti e dovete sentire il dovere, perché io a causa vostra ci ho rimesso miliardi per dirvi la verità. Beh, Damma 1, Damma 2, Damma 3. No, per ragazzi, tu. Fantastico. Gianfranco Funari. Che io amavo particolarmente perché appunto era qualcosa di nuovo, di dirompente. È stato il primo, poi col senno di poi lo posso dire. A mangiare io la mortadella in pubblico. Ma certo, è stato il primo a parlare lo stesso linguaggio, o perlomeno di quello che lui credeva parlassero le persone che aveva dall'altra parte, diciamo, dello schermo. Diciamo che Costanzo cercava di fare la stessa cosa, ma ovviamente aveva quel di più di insomma di cultura anche nel linguaggio che un po' lo rendeva più giornalista. Cosa Funari pensi, invece Francesco? Allora, qua c'è un grandissimo tema sempre attuale, che noi potremmo semplificare con la parola la gente. La gente, no? Con due G, la gente. Ma la gente c'è sempre. La gente, esattamente. Dipende sempre che cosa noi vogliamo fare e che cosa intendiamo per questa cosa qua. Su questo mi appello, ad esempio, a gente ben più grande di me, tipo Beniamino Placido, che in una celebre recensione proprio di Funari aveva detto: il fatto di essere gente comune non ci dà nessun diritto particolare. Cioè, ecco, posso fare una brevissima parentesi, Francesco? Perché adesso certo ci sono tutti i blogger del mondo, tutti che sono esperti di televisione, io ogni volta penso a leggere un po' di Beniamino Placido e di Sergio Saviane in più non farebbe male certo, a nessuno, eh? Certo. Tra parentesi, ecco. E come diceva sempre Placido, sono d'accordo con te, la gente è depositaria del senso comune, che è una cosa diversa dal buon senso, no? Ecco. Quindi il fatto di essere gente non necessariamente ti dà ti dovrebbe dare il diritto di esprimerti così. Sicuramente in un momento in cui, quando va a Funari, quindi negli anni 80 e 90, c'è sempre più bisogno di partecipazione, la spettacolarizzazione della televisione prende il sopravvento sulla politica, è chiaro che tutti da casa, tutti gli spettatori, ci mettono io, voi, chiunque, vuole dire la propria. Questi programmi accarezzano quel tipo di pubblico e quel tipo di sensibilità. Finisco solo dicendo, la domanda di Funari è diretta, era: ci dica tre motivi per cui le persone dovrebbero votarla. E chiaramente è la domanda del popolo questa, no? Cioè non c'è più intermediazione, non c'è più un giornalista che è lì con un compito, cioè che è quello di essere intermediario, spiegare, fare le domande che da casa noi non faremmo ai politici perché non siamo giornalisti. Funari azzera quella cosa lì e ovviamente ha un grandissimo successo di pubblico quel tipo di televisione e ce lo ricordiamo tutti. Anche perché io invece sto con quello che diceva proprio Giuliano Ferrara, mi pare proprio in una trasmissione di Gianfranco Funari, in cui diceva la gente non esiste. Esistono semmai i cittadini, i telespettatori, la gente non esiste, però è un espediente, diciamo, retorico utilizzato da chi vuole invece condurre un racconto e rafforzare la propria visione del racconto. Per esempio, in questo, da un punto di vista politico diametralmente all'opposto, un maestro è anche possiamo Michele mandare? Santoro? Eh sì, perché Michele Santoro è il risvolto politico e colto della gente. Un po' di Michele Santoro. Avete costruito un'immagine della Sicilia? No, scusi. Mi dica quali sono le accuse infamanti, non l'immagine. Perfetto. Le accuse infamanti. Lei ha parlato di accuse infamanti. Io dico così. Quale accusa infamante? Quale notizia falsa? Quale fatto non vero noi abbiamo detto questa sera? E adesso. E questa era Samarcanda con Totò Cuffaro e Michele Santoro. Che ci ricordiamo perché è stata una puntata molto tesa, di quelle storiche. Dicevi un Santoro che tu poni all'altro... Il conducatore delle genti, no? In televisione. Personalmente l'ho sempre amato come regista, quasi più come autore, non voglio dire di fiction perché sembra offensivo, ma di costruzione televisiva di una cosa. Però è il conducatore delle genti, e non so che cosa. Un passo dal dire storytelling, sì, quelle assolutamente, robe brutte, brava. Quelle è quella brutte. Roba lì, ha anticipato lo storytelling, hai detto in modo elogiativo quello che io ho detto in modo un po' più critico. Francesco Caldarola, cosa ne pensi? Guarda, allora, stiamo parlando ovviamente del padre, del maestro, del genere come è arrivato ai giorni nostri, almeno di tanti talk che gli sono debitori, no? È vero quello che dice Daniele, cioè il grande costruttore, la grande narrazione, ma proprio anche che fa godere noi televisivi quando la vediamo, è indubbiamente Michele Santoro, dove nulla è lasciato al caso. Io faccio un breve salto in avanti, stando su Santoro, la puntata che spesso si ricorda è quella del 2013, perché intitolata Mi consenta, quando Silvio Berlusconi, sotto 10 punti nei sondaggi, accetta l'invito di Santoro e va a confrontarsi con Travaglio, con Santoro, a servizio pubblico. Ecco, quella puntata che cominciava con la tromba di Granada, quindi proprio il torero, l'arena, e con le inquadrature che sono dettagli che se le andiamo a rivedere però sono meravigliose, no? Berlusconi che è il vertice di un triangolo nello studio dove ci sono anche Giulia Innocenzi e Luisella Costamagna, il modo in cui entrano gli ospiti, la sedia fu il grande colpo di scena, cioè Berlusconi, senza aver detto nulla a nessuno, dopo l'intervento di Travaglio aveva un foglio in mano e dice: dottor Santoro, anch'io la mia lettera. Si cambia posto con Travaglio, fa un pippone pazzesco con tutte le condanne di Travaglio, Santoro lo interrompe, lo studio si riscalda, poi quando va torna a sedersi a scambiarsi il posto con Travaglio fa questo colpo di teatro che risultò poi molto efficace a detta di molti osservatori, cioè spazzola con i fogli e poi col fazzoletto la seggiola di Travaglio. Lo studio, l'Arena impazzisce e quel programma lì è il programma più visto nella storia della Sette, fece il 33,6%, una cifra pazzesca dove non arriva nessuno neanche adesso, con picchi sopra il 50%, quindi un vero e proprio evento. Se non sei un fenomeno come Santoro, questa cosa non ti succede. E un po' anche come Berlusconi. Diciamo che lì i conducatori delle genti erano due. Era un bello scambio. Ma c'è? C'è il traffico, ci risentiamo traffico. Tra pochissimi istanti, a tra poco. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. YouTube. Ma come sono contenta di questa puntata di RadioTube, che è un po' uno speciale, una puntata che abbiamo dedicato a un genere televisivo del quale parliamo sempre un pochino. Sì, a spizzichi e bocconi, e invece oggi binge-watching alla radio di Talk Show. Posso fare una cosa? Siccome ho paura che non riusciamo a nominare tutti, visto che siamo alla fine e ci sono un po' che abbiamo lasciato fuori. Beh, certo. Li nomino così a caso. Sì. Bruno Vespa non è stato ancora citato, Enzo Tortora poco, con Portobello l'abbiamo. Però Portobello, Enzo Tortora ci sta sempre, ci sta bene, sempre, bene. Sempre, non soltanto per il talk. Mentana Matrix, Dario Bignardi, certo. Fabio Fazio, dobbiamo citarlo, certo. Assolutamente. Poi chi? Mi dimentico. Francesco Caldarola, ricordacene alcuni che potremmo dimenticare. Massimo Giannini. Certo, ovviamente. Lavorava Ballarola, Floris, bravo. Ballarola, Fair Play di Caldarola, bravo. Gli inviati di Santoro, che a loro volta sono dei maestri adesso, cioè Iacona, Corbigli, mm-hmm. E poi insomma fino alle derivazioni. Non dimentichiamoci anche tutta la social TV di Sky, il confronto di Sky con i candidati alle primarie, con la scenografia simile a X Factor e con un'esplosione di social network. Quello è determinante nella storia comunque della politica in TV e del talk show in senso esteso, diciamo così. Allora, visto che l'abbiamo solo citato, però forse vale la pena dedicare qualche istante. La terza camera l'ha definito il professor Simonelli, dicendone non benissimo, all'inizio. Adesso chiediamo anche a Francesco, porta. Pronto? Signor Vespa. Buonasera, Santità. Vorrei ringraziarlo e anche tutti i partecipanti e prendenti parte in colloquio, vorrei partecipare cordialmente. Molte grazie. Grazie a lei, Santità. Questa è uno dei momenti veramente storici. 13 ottobre 1998, Papa Giovanni Paolo II telefona in diretta a Porta, che dedicava una puntata speciale ai 20 anni del suo pontificato. E Vespa, sono 20 anni adesso di Porta a Porta. Quindi Vespa sta per piangere all'inizio. Vespa si commuove, quello è un passaggio storico della TV, cioè il Papa che telefona alla TV non si era mai visto, dopo 2 anni che Porta a Porta in onda, prima il segretario del Papa chiama al telefono Porta del Vespa e poi gli passa al Papa, quindi davanti a questo è un punto appunto che si studia nei libri, questo passaggio qua di Vespa, insomma. Però Vespa riesce anche a fare le cose, cioè il contrario, cioè far diventare il politico che cucina. Ah, sentiamo un altro pezzettino proprio storico. Siamo 12, siamo 13, non 12, 12, non 13. No, 13 no. Ce l'hai l'olio? C'è Sassicali, abbiamo un'altra bottiglia. Beh, un noto politico, non so se lo possiamo nominare perché qua è in par condicio, ma che faceva il risotto? Adesso fa il vino. Sì, quindi Massimo D'Alema. Massimo D'Alema è tornato in zona gastronomica. Vabbè, siamo cattivissimi oggi. E quindi? E quindi no, abbiamo Francesco Caldarola, abbiamo detto 20 anni di Porta a Porta. Lì il talk è diventato qualcosa di più di una trasmissione televisiva. È diventato allora, proprio. Tanto va detto che Vespa, il Porta a Porta è un talk ibrido, cioè che non puro, nel senso che non è come Ballarò, Samarcanda che si occupa solo di politica, ma apre alla cronaca, al costume, alle diete, alla società, alla moda e a tante cose. Quel linguaggio di Vespa è la sua forza, perché quel linguaggio mangia, non c'è una cosa più forte di quella cosa lì. L'esempio è Beppe Grillo. Beppe Grillo non va mai in televisione, l'anno scorso ci è andato, ma Vespa non vuole vincere il duello, è il linguaggio di Porta a Porta di Vespa che stravince in quel caso su Grillo, che diventa anche lui seduto sulla poltrona bianca, per quanto Grillo ci provi, stia in piedi, poi si sieda, gli dia del tu, però alla fine il linguaggio di Porta a Porta è avvolgente e comunque domina sempre sugli ospiti. L'altro passaggio di Vespa determinante che ci ricordiamo tutti è ovviamente ancora con Berlusconi la firma del contratto con gli italiani. La scrivania. Abbiamo una scrivania, chiede Vespa, gliela portano, ovviamente era già scritto tutto, era preparata con Crespi, con tutti gli spin doctor di Berlusconi, e Berlusconi firma, ed è un'innovazione anche scenica molto importante, molto efficace, molto riuscita alla fine, se la ricordiamo. Abbiamo citato tutti i leader, più o meno tutti gli schieramenti, non abbiamo detto Lega, quindi io dico Lega. Diciamolo, così li abbiamo citati tutti. C'è stato un premier pochettino meno bravo di Berlusconi. Stai violando la par condicio? Ma c'è stato, è senatore a vita adesso, credo non stia più nessun partito. Okay. Ed è stato un po', secondo me, l'inizio della crisi del talk show politico, perché l'arrivo di un personaggio così antipersonaggio come il professor Monti ha mandato ovviamente in crisi. Come fai a fare un talk show con il professor Monti a Palazzo Chigi? Ci ha provato qualche modo l'attuale direttrice, direttoressa di Rai 3, Daria Bignardi, e soprattutto così, con il cagnolino. Il cagnolino Empi andò così. Allora, Berlusconi domenica scorsa si è fatto fotografare con un cagnolino. Lei sarebbe disposto ad adottare un cucciolo che noi le regaliamo? Questo. Dai, proviamo. Questo è un vile ricatto. Proviamo, io provo a mettermelo in braccio. Guardi che carino. Oddio, ma che meraviglia. Molto carino. No? Vediamo come si comporta. Ricordiamo che il cagnolino Empi veniva da empatico. Empatia. Secondo me qui Daria Bignardi vuole proprio certificare, non dico la fine, però la difficoltà post Berlusconi di fare un talk show, perché lo dice anche, no? Berlusconi una settimana fa si è fatto fotografare. Secondo me è lì che inizia il declino. Non è un po' lì, Francesco, che entra, cioè voglio dire, gli autori possono fare tanto, i conduttori possono fare tanto, però nel talk show poi l'ospite conta, Beh, certo, infatti i tempi, e lo dico solo col sorriso da tecnico, però i tempi del professor Monti furono per noi dei talk disastrosi. Noi venivamo dagli anni di Berlusconi, gli anni finali, le oggettine, cioè quanto ce n'era da dire, bastava sederne uno lì che si faceva il talk da solo. Con la sobrietà del mondo di Monti, ovviamente quello che valeva fino al giorno prima di colpo non vale più. Francesco, ti chiedo un'ultima cosa, visto che abbiamo fatto una carrellata dalla tribuna elettorale a oggi, ma nei talk di oggi c'è una variabile che tu a un certo punto hai citato, che cambia completamente le carte in gioco, il fatto che ci sono i social, che c'è più o meno interazione, che si può perlomeno usare, si comincia a usare l'interazione con i social. Dal tuo punto di vista di autore, tu come li usi? se ce li hai sempre aperti, se li guardi come feedback del tuo lavoro, come li usi tu i social? Allora, intanto va detto che ovviamente un talk come Ballarò ogni martedì è un live tweeting, ovviamente, una diretta su Facebook, e vi dirò di più, noi, come pochissimi altri programmi, in diretta mandiamo degli approfondimenti, cioè dei documenti, dei testi che vengono citati in diretta, tutto in diretta, in modo tale che chi ci segue sui social possa anche approfondire. C'è un altro modo di seguire, ovviamente, non la guardi solo la televisione, lo puoi seguire anche sui social. Per ciò che riguarda me, guarda, allora, è acclarato che l'andamento dei tweet soprattutto non sia legato agli ascolti in maniera ancora chiara e diretta, neanche proporzionale. Sicuramente, come dicevi tu all'inizio, chiudo così con una battuta, è pieno, no, di autori televisivi su Twitter, sì. È pieno di esperti di televisione, è pieno di... però fa parte anche... anche radiofonici, è detto tra noi. Certo. Senti, no, visto che siamo in chiusura, devo solo dare un dato per chiudere, per far riflettere. A novembre del 2015, che è l'ultima rilevazione che avevo, i talk nella TV italiana nei 7 canali erano 32. Ah, quindi vabbè, se sta morendo, però voglio dire... È una riflessione sul fatto che tipo... sono aumentati, però non vuol dire che l'ascolto sia diminuito, se no, voi come sapete, le aziende, no, se sono antieconomici non li mandano in onda. B, in media un italiano ne guarda 9 al mese. E non è poco. No. Sono dati che fanno riflettere sulla funzione così. Sul decadimento dei talk è sgradevole, è inopportuno che ne parli io, che li faccio ovviamente. È legato sicuramente, talk e politica, televisione e politica sono molto legati, quindi se noi diciamo che i talk decadono, anche la classe dirigente deve farsi delle domande, no? Certo. Senso, da questo punto di vista sono legati a doppia mandata, uno con l'altro, però insomma questo era il dato che volevo dare sui talk show, sullo stato attuale dei talk show in Italia. Che così ci dà un po' anche la risposta alla domanda, sì, esatto. Sono vivi, sono morti, rispondiamo con sono un numero. 32. Sono 32. Sì. E che tra l'altro rispondere con un numero alla meno radio male che del non erano 24. 33 perché giovani e forti, invece no, 32, no, 32 va benissimo. No, 32. I nostri anni, diciamo, i nostri anni. Più o meno. Grazie Francesco Caldarola. E ci ritroviamo sabato prossimo? Sì. Al prossimo sabato.